Palazzo Roberella, Rovigo, siamo con il curatore dell'esposizione Vedere la musica con il signor. Paolo Bolpagni. Un'esposizione che si snoda in diverse correnti, in una realtà di intersezione specifica. Che succede tra le arti visive e il suono? Beh, ci sono molti rapporti, questo sin dall'antichità, ma in maniera particolare nell'arco cronologico di riferimento di questa mostra, quindi dal 1880 al 1940 circa, dalla stagione del simbolismo sino alla conclusione delle avanguardie storiche. È un momento nel quale tra le arti visive e la musica, ci sono effettivamente molte interrelazioni, molti rapporti, scambi anche, e questa mostra li documenta con uno sguardo europeo, partendo appunto dall'età del simbolismo, rappresentata da alcuni dei suoi massimi artisti, e attraversando le vicende dell'arte sino agli astrattismi degli anni 20 e 30, e vedendo appunto movimento per movimento quali sono i frutti di questo fruttuoso dialogo intessuto tra gli artisti della visualità e quelli del suono. Beh, io starei a parlare per ore, in quanto appassionato di simbolismo. Adesso ho guardato, ammirato, tra l'altro, in maniera estremamente veloce per raggiungerla, ma nel simbolismo il mito protagonista e soprattutto la figura per la musica di Orfeo. Beh sì, effettivamente la figura di Orfeo è una, diciamo, di quelle cardine come emblema del potere della musica. E il potere della musica, il fascino, la forza evocatrice dell'arte dei suoni è protagonista attraverso figure mitologiche, allegoriche, oppure anche attraverso figurazioni di carattere diverso. Penso al capolavoro di Oskar Kokoschka, uno dei protagonisti dell'espressionismo austriaco, che in un dipinto qui esposto dal 1918, Il potere della musica, appunto, rappresenta in una maniera certo non descrittiva, ma anzi evocativa, questa forza del linguaggio dei suoni. Quindi abbiamo parlato velocemente di simbolismo, espressionismo, futurismo, anche abbiamo provato così guardando tra le sale. C'è anche il futurismo con una sezione grande, ampia, dove ci sono gli intonarumori di Luigi Russolo, perché il futurismo è stata un'avanguardia non soltanto pittorica, ma anche musicale, oltre che letteraria, eccetera. E però devo dire che il capolavoro della sezione è il ritratto che Umberto Boccioni fece all'inizio dell'estate del 1916 a Ferruccio Busoni, grande pianista, compositore, oltre che intenditore d'arte. Ed è un'opera appunto di enorme valore e anche l'ultimo capolavoro di Boccioni, che morirà 2 mesi dopo, nell'agosto del 1916. Avere quest'opera è effettivamente una cosa importante e Certo, rara. e tra l'altro, a proposito di realtà musicali, non dimentichiamo anche gli aspetti di interazione, come ha detto prima, anche con iconografie legate a tutti i tempi con il mito, anche a Wagner. Sì, Wagner, diciamo, costituisce un vero e proprio fenomeno, il wagnerismo appunto, che attraversa non soltanto la musica, ma anche in maniera molto consistente le arti visive per un arco cronologico piuttosto lungo, dagli anni 80 sino agli anni 10, anche 20. E perché? Per tante ragioni. Perché all'epoca chi voleva dirsi moderno naturalmente doveva essere un fautore della musica wagneriana, ma anche per il fascino dei miti medievali messi in Per scena quello da il mito, Wagner. l'iconografia, ecco. C'è molto mito germanico, Certo, Valchirie, Parsifal, Nibelunghi. Nibelunghi. Questo affascinava molto all'epoca. E poi effettivamente Wagner è stato anche il compositore che ha inventato il concetto di opera d'arte totale, il che ovviamente ha suscitato un forte ascendente anche sugli artisti della visualità, sui pittori, gli scultori. Quindi ci sono diverse tematiche, seppur l'interazione musicale e l'arte figurativa, anche il discorso della storicità, del mito, delle correnti artistiche che tra di loro vanno oltre il tempo e arrivano ai giorni nostri. In quante opere? Sono 170 Ah, però. opere, sì, è una mostra ricca. Tra l'altro, le opere provengono da ben 7 diversi paesi europei, che non è stato facile in tempi di pandemia, perché però ci si è riusciti, sono 40 i musei prestatori, molte collezioni anche private, appunto da ogni angolo d'Europa, che si sono qui radunate con questi 170 pezzi, che sono, devo dire, quasi tutti i capolavori dei più grandi, sì, artisti dell'epoca. Divisa per sezioni riguardanti le correnti? Allora sì, riguardanti le correnti, anche alcuni temi specifici, per esempio c'è una sezione proprio su Wagner, ma c'è anche una sezione su Beethoven, che fu oggetto di una notevole fortuna iconografica tra fine 800 e primi del 900. Poi c'è una sezione sulla grafica, quindi proprio specificamente dedicata all'incisione, alle stampe. Per il resto invece è un discorso cronologico per movimenti dal simbolismo, il cubismo, l'espressionismo, il futurismo, gli astrattismi, insomma, sino anche al linguaggio figurativo, dal cosiddetto ritorno all'ordine in Italia tra le due, sì, guerre mondiali. La domanda più difficile per un curatore, che di solito io tengo in prima di congedarci, un'opera così a bruciapelo. Allora, in questo momento io direi... il mio artista preferito è una cosa che uno storico dell'arte non dovrebbe mai dire, però adesso smetto i panni... Lo so, è per quello che ho fatto questa domanda. Smetto i panni dello storico dell'arte e mi trasformo in quelli dell'appassionato. Per me il più grande artista del Novecento è Paul Klee. In mostra abbiamo un piccolo ma straordinario capolavoro di Paul Klee del 1921, che per me è l'opera del cuore. È stato un piacere conoscerla, complimenti per la straordinaria esposizione e ci daremo nuovamente appuntamento a Palazzo Roverella a Rovigo. Grazie e buona giornata. Grazie, molte grazie a lei e a chi ci ascolta.